da servi, servi al tuo grado, a entrambe lascia con le lusinghe la libertà d'amarti. Lasceranno dall'amore le gelosie e dalle gelosie l'ire e gli sdegni. Così forte armerai Roma contro di Roma e Benedice contro di Benedice.